Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, rublo in caduta libera, tutti a Mosca a Capodanno, stanno scrivendo alcuni ascoltatori. In realtà la situazione è serissima, nel senso che l'euro ha toccato quota 100 rubli e quindi precipita. Ricordo, ne parlavamo proprio ieri, che il rublo da inizio anno ha perso, la valuta russa ha perso il 50% del suo valore, ma è ulteriormente peggiorata. 100 rubli per un euro e 80 rubli per un dollaro. Praticamente la valuta russa ha iniziato a crollare ulteriormente dopo che la banca centrale russa ha portato i tassi di interesse in Russia dal 10,5%, che è un livello enorme visti i tassi di altri paesi, l'Europa, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, ma le ha portati, dicevo, dal 10%, dal 10,5% al 17%, che è un livello da, diciamola tutta, da paese fallito. Il rialzo dei tassi ha però bloccato la caduta del rublo per appena 2 ore e poi invece ha ripreso a scendere. È crollata anche la borsa russa, su questo però la borsa russa è veramente sull'otto volante, è arrivata a perdere il 20%, è la peggior flessione dal 1995. I CDS, i famosi credit default swaps, che abbiamo imparato a conoscere, si fa per dire, durante lo scoppio della crisi finanziaria del 2008, ossia quanto è il premio per assicurarsi sul fallimento della Russia, sono saliti a 590 ora per punti. Quindi il premio che si paga per assicurarsi contro l'eventuale fallimento di Mosca, della Russia, è a un livello vicinissimo a quello di Cipro. Cipro ha i credit default swaps a 650 e doppio rispetto a quello egiziano. La banca centrale russa, vale la pena ricordarlo, ha già utilizzato quasi 100 miliardi di dollari per contrastare la discesa del rublo negli ultimi mesi senza riuscirci. Ne ha spesi 50 miliardi solo negli ultimi 2 mesi, quando comunque il crollo del rublo si è amplificato, ha perso il 25% del suo valore solo negli ultimi 2 mesi. Tutte le stime di crescita tagliate, lo ricordavamo già, il caso sta diventando un caso vero e proprio di diplomazia e di relazioni internazionali, perché c'è stato un vertice oggi tra il premier russo Medvedev con i responsabili dell'economia, quindi il vice premier, il consigliere presidenziale, il ministro delle finanze, il ministro dello sviluppo economico, la governatrice della banca centrale Elvira Nabiulnia e il primo vice capo dello staff governativo, ma soprattutto c'è stato anche un botta e risposta con gli Stati Uniti. Perché se il primo vice governatore della Banca Centrale Russa, si chiama Sergei Shevtsov, ha definito critica la situazione del rublo e ha detto: attenzione, quello che sta succedendo ora, un anno fa non lo si poteva nemmeno immaginare nel peggiore degli incubi. Nei prossimi giorni, ha proseguito il numero 2 della Banca Centrale Russa, penso che la situazione sarà paragonabile al periodo più difficile del 2008. Ancora, però ministro russo Lavrov ha dichiarato, che il capo, diciamo, è ministro degli esteri, capo della diplomazia di Mosca, ha dichiarato in un'intervista a una TV francese: ho ragioni molto serie per supporre che gli Stati Uniti, attraverso le sanzioni, stiano cercando di destabilizzare la situazione e cambiare il governo in Russia. La Russia, ha proseguito Lavrov, ha sopravvalutato l'indipendenza dell'Unione Europea e di alcuni grandi paesi europei dagli Stati Uniti. Come dire, l'Europa si è accodata agli Stati Uniti. Ha risposto poco dopo il segretario di Stato, il ministro degli esteri americano John Kerry, dicendo: il caldo del rublo non ritengo sia legato solo alle sanzioni, ma dipende anche da altri fattori, incluso il petrolio. Poi ha aggiunto: la revoca delle sanzioni dipende solo dal Cremlino. Ora, voi direte: perché tutta questa attenzione per la Russia? Beh, l'Italia è un partner commerciale importantissimo della Russia. C'è da questo punto di vista tutto il settore del lusso, del turismo, anche di alto livello, ma non solo, che ne risentirà. C'è l'esposizione bancaria italiana in Russia. Le banche italiane sono esposte erano esposte a giugno per 27 miliardi, erano seconde solo dopo le banche francesi e prima delle banche americane. Tra l'altro, la gran parte di questi miliardi, una buona parte era al settore pubblico, ma la maggior parte al settore privato. Secondo la Coldiretti, il crollo del rublo unito all'embargo rende chiaramente meno conveniente l'importazione di generi del Made in Italy, 300 milioni di euro in meno in un solo trimestre. E le esportazioni si sono ridotte di 170 milioni di euro ad ottobre, di 100 milioni a settembre, di 33 milioni ad agosto. Sarebbe interessante vedere che cosa sta capitando adesso a dicembre, con un rublo appunto che vale meno della metà di quanto non valesse un anno fa, quindi il calo è intorno al 60%. Immaginate se l'euro avesse perso il 60% nei confronti del rublo, cioè all'opposto, quanto costerebbe l'importazione di generi russi. In realtà noi importiamo soprattutto gas e petrolio, diverso il caso delle nostre esportazioni. Poi citeremo anche i dati sull'interscambio commerciale Italia-Russia, e questo è chiaramente il tema forse principale della giornata. L'influenza sulle borse europee, devo dire, è rimasta contenuta, e poi addirittura le borse hanno preso a crescere. Milano in questo momento sta guadagnando il 2,70%, meglio di Parigi che guadagna l'1,70%, di Francoforte che guadagna l'1,80%, Londra più 1,27%. Per quello che riguarda i titoli, oggi a Piazza Affari segnaliamo in particolar modo bene Popolare Emilia Romagna più 5,90, UBI Banca più 5, CNH più 4,70, Finmeccanica più 4,60 come Saipem, Mediobanca più 4,12, Tenaris più 4 come Snam, Banca Popolare di Milano più 3,80%, ST Microelectronics che guadagna il 3,70%. C'è un indice PMI europeo che fa ben sperare sull'economia del vecchio continente. Oggi in recupero tutte le banche e gli energetici. Monte dei Paschi più 3,70, Eni più 3,60, nonostante il calo del petrolio. Anche oggi pesa molto il calo del petrolio sull'economia russa, visto che quella è la principale fonte di introito per la Russia. Un petrolio che viaggia verso i $50 al barile dimezza le entrate anche per la Russia. Ancora, dicevo, Exor più 2, Ferragamo più 2%, negativa solo Jux dello 0,60%. Allora, crollo del rublo e della borsa russa, i conti anche del gruppo Poste Italiane, l'intervento, il piano di Juncker che abbiamo non criticato, su cui siamo molto scettici perché mi sembra che non ci siano soldi nuovi, lui lo riconosce, non ho risorse in più. Il premier Matteo Renzi ha dovuto dire che il piano del neocommissario europeo è comunque un piano improntato alla crescita, anche se è migliorabile. È chiaro che Renzi ha un ruolo diplomatico di primo livello e quindi non può dire, cioè non può parlare come parliamo noi, mettiamola così, a tutti gli osservatori. È invece abbastanza chiaro che il piano di Juncker è un piano in cui c'è poco, molto poco, e lui stesso oggi non ha fugato questi dubbi, questo giudizio, perché ha ricordato come di questi 21, che poi sono 15 miliardi che metterà a disposizione l'Europa, 5 li va a stornare, cioè a prendere dal fondo investimenti e ricerca europeo. Non mi sembra una gran mossa, comunque voglio dire, è la partita delle tre carte. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Dicevamo del petrolio che è sceso ulteriormente, che comunque viaggia su $54 al barile a New York, anche dopo le dichiarazioni del ministro del petrolio del Kuwait. Lui si chiama Ali Al-Omair, ha detto il Kuwait o meglio, ha detto l'OPEC, quindi i principali paesi produttori, non ha bisogno di modificare la propria decisione e quindi manterrà invariate le quote di produzione di petrolio per contenere il crollo dei prezzi. E non c'è bisogno di agire sui prezzi. Kuwait pensa che la decisione sia stata corretta e dovremo mantenerla. E tra l'altro anche l'agenzia di rating Standard & Poor's ha tagliato tutte le previsioni sulla quotazione del petrolio nel 2015 e nel 2016. Vede il petrolio a $70 il barile nel 2015, a 75 nel 2016. Oggi l'ENI ha ridotto ulteriormente il prezzo consigliato della benzina di 3 centesimi e quello del diesel di 2 centesimi. Prezzi in discesa ovunque, si va da 1,622 euro al litro dell'ENI a 1,653 euro di Shell e Tamoil, in Ologo a 1,490 euro, per il diesel si passa da 1,550 euro di ENI a 1,581 euro di Tamoil. In Ologo, quindi i marchi che non appartengono alle, ai grandi gruppi, a 1,400 euro. Vedo molti messaggi sulla Russia, un po' di pazienza, avremo su questo tutto l'approfondimento nella seconda ora. Ancora per quello che riguarda invece la Cina, la banca, la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC, ha detto che sostanzialmente che vi sarà un rallentamento dell'economia nel mese di dicembre per l'economia cinese. Venendo all'Europa invece, il numero uno della Bundesbank, della banca centrale tedesca, nonché consigliere della Banca Centrale Europea, Hans Weidmann, ha detto l'inflazione è sotto zero, non è deflazione. Io veramente, evidentemente ormai sono prevenuto, ma cosa vuol dire? Cioè, dice Weidmann, l'inflazione dell'area euro nei prossimi mesi potrebbe persino scendere sotto zero, ma ciò non significherebbe automaticamente deflazione. E come la chiami, Weidmann? Non inflazione? Prezzi non in salita? E se i prezzi non sono in salita e non sono fermi perché vanno sotto zero, come li chiamiamo? Prezzi che vanno in quella direzione opposta alla salita? Chiamiamola anche Giulio, se volete, però a noi, quando si studiava, quando io studiavo, se c'era il segno meno nell'andamento dei prezzi, si chiamava deflazione, l'opposto dell'inflazione. Non aspettatevi miracoli dal quantitative easing, dice Weidmann, che però sembra darlo per scontato quasi, nel senso che dice, attenzione, Draghi comprerà titoli di Stato di alcuni paesi dell'area euro, stamperà moneta, ma non aspettatevi miracoli, il bisogno di riforme non è finito, non è nostro compito comprare tempo per la politica, e gli strumenti convenzionali ormai sono esauriti per la Banca Centrale Europea, diventa un periodo molto difficile. E siamo arrivati in una zona in cui per la Banca Centrale Europea diventa molto difficile operare. E poi aggiunge che la BCE ormai è arrivata al confine del suo mandato. Vabbè, Juncker, adesso raccontiamo anche un po' del piano Juncker, sta uscendo pochissimo, se non questa cosa dei miliardi spostati dal fondo per ricerca e investimenti, 5 miliardi a questo fondo per sviluppare nuovi progetti. Ne ha parlato però anche il premier Matteo Renzi, ha detto il 2015 sarà decisivo, non bisogna cedere alla cultura anti-europea, nel semestre non abbiamo perso l'occasione, ma il 2015 ci dirà se per la crescita la strada è giusta oppure si tratta di un dato spurio. Il piano Juncker è migliorabile, ma almeno torna a parlare di crescita, non c'è solo l'austerità. 6 mesi fa pochi pensavano a un possibile successo. Per la prima volta si dice ok, se procedi a degli investimenti che siano investimenti condivisi, puoi scorporare dal patto. Non è sufficiente per me. Continuerò all'interno del partito politico europeo di cui faccio parte, che su questi temi ha ancora una timidezza incomprensibile, e all'interno del Consiglio europeo a combattere, perché gli investimenti che servono a ridurre la bolletta energetica in Italia, che cuba circa 5 miliardi di euro, possano essere esclusi dal patto di stabilità. Che gli investimenti in banda larga possano essere esclusi dal patto di stabilità. Insomma, è quello che banalmente chiediamo da anni. Faceva parte del piano Delors prima che scoppiasse la crisi, Jacques Delors, uno dei padri dell'Europa, e cioè, lo ripetiamo ogni volta, ma non ci stancheremo mai, distinguere tra quando uno Stato opera un investimento che serve alla sua competitività e quindi alla competitività dell'intera area euro, tra quando uno Stato ha una spesa e basta. Come un imprenditore, un manager conosce bene la differenza tra un investimento e una spesa. E non rifaccio la battuta dell'ufficio della segretaria. Ok, per cui è ovvio che se tu la spesa corrente è una spesa, la spesa per beni intermedi della pubblica amministrazione è circa 130 miliardi, è una spesa, non è un investimento. Altra cosa è l'investimento in infrastrutture, l'investimento in macchinari, l'investimento in infrastrutture anche digitali. In un mondo serio, e se l'Europa non fosse in mano a dei tecnocrati distanti dalla realtà, si capirebbe che completare un'opera, riammodernare gli edifici, digitalizzare il paese è un investimento, che invece spendere tutto quello che spendiamo per la pubblica amministrazione con i 30.000 centri appaltanti che abbiamo in questo paese, ma che fine ha fatto la spending review di Cottarelli, tra l'altro? Boh, scomparsa. Spendere per beni intermedi è un costo e basta, un costo che devi operare, per carità, per il funzionamento della macchina, ma non è un investimento. Ecco, questo sarebbe l'obiettivo finale. Vabbè, per quello che riguarda invece il governo italiano, il premier Matteo Renzi ha anche detto che i decreti per il Jobs Act, il Consiglio dei Ministri farà il 24 dicembre. E poi, per quello che riguarda la manovra di stabilità, invece vi sarà un esame lampo della manovra in Senato e la fiducia arriverà venerdì. Dati buoni sono arrivati oggi dal commercio con l'estero, a ottobre più 2,9% l'export rispetto a un anno fa, e ancora nonostante la Russia. Oggi Ucimu, quindi macchinari utensili, robot e automazione, ha diffuso un dato in cui la produzione cresce più 4,6% nonostante l'export non sia andato benissimo proprio per la Russia. Dopo il meteo e la pubblicità parliamo di imprese italiane, imprese lombarde in questo caso, perché oggi Assolombarda ha presentato i 50 progetti per far decollare quest'area geografica e quest'area economica, ma diciamo come modello anche per altre aree del paese. In primo luogo lo sblocco dei pagamenti B2B tra imprese e imprese, 63 miliardi realizzati in un anno. Ne parleremo con il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, dopo il meteo e la pubblicità. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Continuiamo, lo stiamo facendo da settimane, a raccontare anche le notizie positive, non certo per edulcorare la pillola, lo ricordavamo anche ieri, ma perché qualcosa si sta muovendo, qualcosa c'è in un panorama comunque molto difficile, non forse così difficile come 3-4 anni fa, ma tuttora molto difficile. Allora, oggi Assolombarda, che è la principale la più grande organizzazione di Confindustria sul territorio, riunisce tutte le imprese della provincia di Milano, ha presentato i 50 progetti, o meglio il bilancio dei 50 progetti per far volare Milano, bilancio in un anno. Ne abbiamo parlato con il presidente Gianfelice Rocca, che è anche presidente del colosso Presa in Italia Techint, colosso del settore dell'acciaio, a cui abbiamo chiesto prima un bilancio complessivo, poi un'analisi dei singoli casi, quelli più eclatanti, a partire dal pagamento privato su privato. Ma nell'insieme io sono contento perché questi progetti hanno catalizzato una quantità di energie sul territorio milanese importantissime. L'idea di fondo è che erano metà per le imprese, cioè aiutare le imprese, metà per le imprese erano riferite a aiutare le imprese, a abilitarle in un mondo che non è favorevole a fare impresa, e metà per fare che le imprese migliorassero, si differenziassero, facessero innovazione dal punto di vista dei nuovi sistemi di produzione, la digitalizzazione, e metà erano destinati a far volare la nostra città. Noi sappiamo che il futuro è fatto dalla competizione fra città metropolitane, e Milano ha le caratteristiche per essere una grande città metropolitana che compete, perché ha molti fattori di vantaggio, grandi università. Ecco, noi abbiamo lavorato tutti insieme, ogni progetto era definito, l'insieme dei progetti definiva un piano strategico, quindi il metodo era quello di dire: questi sono dei mattoni che visti insieme sono un piano strategico, quindi 50 mattoni che fanno un tempio strategico. I singoli progetti li abbiamo definiti con dei numeri da cambiare. Per esempio, quando noi parliamo di Milano città delle start-up, abbiamo confrontato i numeri di start-up innovativi che ci sono ad Amsterdam piuttosto che a Monaco e in altre città, e poi ci siamo posto il problema di come facciamo. Questo è un progetto difficile che ovviamente non si vede in un solo periodo, per citare un progetto complesso e pluriannale, e su questo quindi noi definiamo insieme all'università i metodi per migliorare il venture capital, gli angels, e poi ci misuriamo mese per mese, trimestre per mese, cosa abbiamo fatto per procedere da questo punto di vista. Non vediamo i numeri cambiare rapidamente, ma sappiamo che siamo nella direzione giusta perché facciamo le cose. Poi invece abbiamo progetti concretissimi, per esempio alle imprese c'è un premio di finanziamento delle imprese notoriamente, e noi l'abbiamo affrontato da diversi lati, per esempio facilitando il rapporto fra imprese e banche attraverso quello che abbiamo definito un BancoPass. Il linguaggio delle imprese, delle piccole imprese, delle banche è molto diverso, non sanno cos'è un business plan, si presentano, noi li aiutiamo attraverso un linguaggio comune che abbiamo definito con le banche, in modo che le imprese le facilitiamo per presentare i numeri in una forma leggibile dagli interlocutori, e questo è un esempio, si chiama BancoPass, e abbiamo moltissime imprese che ne hanno usufruito. Poi abbiamo fatto questa grande innovazione, che è abbastanza importante, di fare in modo che le imprese, anche particolarmente le grandi, definiscano come pagano le piccole imprese e rispettino poi gli impegni che hanno preso. Se sono 60 giorni rispettano i 60 giorni. Questo l'abbiamo fatto insieme agli inglesi, che avevano sviluppato il Prompt Payment Code. Non ci si credeva che l'avremmo fatto fra privati, un sistema del genere che avrebbe dato. Noi abbiamo in questo momento 150 imprese associate che hanno 200.000, perché sono grandi imprese, 200.000 fornitori per 63 miliardi di acquisti all'anno. Vuol dire che 63 miliardi di acquisti all'anno in questo momento sono pagati e saranno pagati attraverso questo sistema. Questo è un esempio di come i privati del metodo a Solombarda, che è di partire da noi stessi piuttosto che chiedere, fare, e anche fra privati chiediamo al pubblico di pagare bene, e anche noi dobbiamo farlo fra di noi. Sono esempi. Quindi servizi alle imprese, lei citava alcuni casi emblematici, e anche il tema dei pagamenti tra privati, perché spesso ci siamo occupati giustamente anche dei pagamenti e del ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione ai privati, ma c'è tutto un tema del pagamento dentro la filiera, fornitore, subfornitore, a valle, a monte, che spesso non viene ricordato. Da questo punto di vista voi avevate lanciato anche un'iniziativa che immagino necessiti di maggior tempo, che riguarda la formazione dei nostri ragazzi, e quindi un tema che sta molto a cuore a Confindustria, e mi riferisco a lo smantellamento parziale, ma ahimè significativo, che nel corso degli ultimi decenni è stato fatto degli istituti tecnici di formazione professionale, come si chiamavano una volta, con un errore clamoroso anche di lettura della storia, delle dinamiche, quelli che erano elementi di eccellenza sul territorio e che erano strettamente collegati anche ai distretti del territorio, per cui all'interno del grande alveo degli istituti tecnici c'erano diversi indirizzi in diverse focalizzazioni, sono stati smantellati. Già 7-8 anni fa Confindustria iniziò un percorso proprio sul tema dell'education, dicendo: attenzione, abbiamo bisogno anche di quelli che una volta si chiamavano periti e si chiamano tuttora periti, non possiamo avere solo laureati, a maggior ragione aggiungo io, in scienza della comunicazione, non dovrei dirlo io, ma è così. A che punto è il percorso di coinvolgimento, per quello che riguarda la Lombardia, degli istituti tecnici professionali? Dunque, su questo è stato fatto un grossissimo lavoro che riguarda anche i temi dell'apprendistato. Noi sappiamo, nella nostra valutazione, questi sono i numeri da cambiare, che circa un terzo della disoccupazione giovanile è dovuto alla cattiva combinazione fra sistema formativo e sistema delle imprese. Quindi noi lavoriamo su questo snodo, che vuol dire varie cose, vuol dire avere dei periti e quindi recuperare la qualità negli istituti tecnici, nella collaborazione con le imprese. Io ricordo che agli istituti tecnici è stato dato il 30% di possibilità di determinare i loro curricula. Questo è creare gli organismi. Noi stiamo andando avanti per occupare questi spazi in modo da aiutare gli istituti tecnici a definire il loro profilo in uscita. Poi le imprese hanno bisogno di quello che io chiamo i periti plus, e abbiamo realizzato 6 ITS in questo breve periodo, che sono dei profili richiesti dalle imprese in cui i periti fanno 1 o 2 anni di adattamento al mercato successivo. Poi stiamo lavorando con l'università perché le lauree brevi, esistono le lauree brevi professionalizzanti, le lauree di 3 anni, che esistono in tutto il mondo, mentre sono assenti in Italia. Da noi c'è solo un accademismo che spinge verso le lauree quinquennali. Ecco, su questo con l'università stiamo determinando una serie di problemi, e stanno nascendo i primi corsi professionali che erano in linea con i diplomi universitari del passato, che funzionavano benissimo. Quindi è un panorama di azioni che hanno coinvolto molte imprese, devo dire portando moltissima esperienza tedesca a questa esperienza. Noi, anche col vantaggio di avere all'interno della squadra di presidenza aziende multinazionali tedesche, stiamo usando tutta la loro esperienza, la loro passione nel generare questo tipo di metodo, quello di avvicinare la scuola alle imprese. Oh, così parliamo di Germania una volta tanto in senso positivo. Allora, venendo ai temi dell'Expo, perché poi vorrei arrivare anche ai temi nazionali, lei oltre che fare presidente della principale territoriale di Confindustria è anche a capo di una dei grossi, non ce ne sono tanti in questo paese, dei grossi gruppi privati, mi riferisco alla Techint. Però arriviamo dopo a questo, restando su Milano, qui c'è un tema che riguarda l'Expo. Allora, l'Expo, per quello che riguarda la vostra pianificazione, sta già avvenendo, nel senso che mancano scarsi 6 mesi e ormai è un problema di finitura. Il tema che si pone, se vogliamo avere un occhio un po' più lungimirante, è quello del dopo Expo. Immaginando che l'Expo, noi tutti ci auguriamo, sarà un successo, che cosa fare di quell'area? Come non lasciare una cattedrale nel deserto, anche per non lasciare un ricordo negativo? Voi avete lanciato il programma NEXPO, che già ricorda nell'acronimo Next Expo, dopo l'Expo, e vorrei sapere quali sono i punti cardine, e poi anche se vuole una sua opinione su un tema che apparentemente è solo milanese, ma in realtà è anche di carattere nazionale, che dove costruire lo stadio nuovo, visto che le società e il comune hanno idee un po' diverse. Ma quella è una infrastruttura che si crea in corrispondenza dell'Expo, che verranno tolti i capannoni, diciamo capannoni o queste strutture leggere, ma resterà una struttura fortemente infrastrutturata, e che quindi dobbiamo trovare il modo migliore per come dopo Expo, se questo diventa una leva per l'innovazione, una città hub della conoscenza, una città dell'innovazione, questa è un'occasione molto collegata dal punto di vista dell'infrastruttura, della mobilità, e perfettamente organizzata. Quindi noi su questo abbiamo lanciato un primo studio che abbiamo fatto con la Bocconi per vedere come, e poi abbiamo collegato una serie di grandi multinazionali e società tecnologiche per vedere come potrebbe diventare un parco scientifico. Ci sono dei fantastici parchi scientifici che sono nati, e Milano ne ha bisogno di pensare al suo futuro, e quindi sarebbe una fantastica post Expo, Nexpo, e questo è il progetto. Cos'è il problema? Il problema è quello finanziario. Su quell'area insistono 200 milioni di debiti più il capitale. Ecco, noi quindi stiamo analizzando insieme alle imprese che partecipano, che sono grandi imprese, in che modo si possa trovare una soluzione economica a tutto questo. Ora, la difficoltà di immaginare sullo stesso terreno un parco scientifico e uno stadio è che sono due vocazioni completamente diverse, mentre se uno vedesse un polo sportivo o un polo ambientale fatto di piscine è molto più compatibile. Questi enormi movimenti, enormi infrastrutture, che fra l'altro sono come delle pietre tombali sopra tutte queste infrastrutture che ci sono sotto, questo sembra abbastanza incompatibile nella visione delle imprese che partecipano a questo progetto. Quindi io credo che noi dobbiamo andare avanti a studiare, analizzare, per vedere di creare una fattibilità economica a un progetto di alta levatura. Secondo me è possibile, bisogna lavorare con la voglia di farlo. Quindi no allo stadio nell'area Expo? Secondo me al momento prima vedrei tutte le altre alternative e lascerei questa come l'ultima. Allora, dicevo prima che la Lombardia può essere considerata un paradigma. Allora, fermo restando che il paese, come si dice spesso, è lungo, l'Italia è lunga, per cui paradigma fino a un certo punto di vista. Però sappiamo che, diciamo, quello che accade in Lombardia ha delle ripercussioni sul territorio nazionale, sulla parte più produttiva del territorio nazionale, che qui arrivano per primi fenomeni e in anticipazione anche fenomeni di crisi, di recessione, ma anche fenomeni di espansione. Allora, da questo punto di vista, che cosa manca, e qui lo chiedo più all'industriale che al presidente di Asso Lombarda, nel modello di sviluppo lombardo, e che può essere anche utilizzato come paradigma per ciò che manca nel resto dei distretti, delle aree geografiche del paese? Ma la Lombardia ha moltissimi sapori, rischia, per esempio, anche rispetto a città che hanno molti meno sapori come Torino, di mancargli la ricetta. Cioè, questa è una società che tende a pensare che la forza delle sue componenti costituisca automaticamente una forza del sistema complessivo. In realtà, in un mondo che è pieno di sfide tecnologiche, pieno di sfide nelle scienze della vita, nell'invecchiamento, è solo avendo una visione strategica che queste cose si massimizzano. Ora, quello che manca, secondo me, è la comprensione che bisogna avere una visione strategica. Questo, e che non bisogna aver paura di una visione strategica, e quindi catalizzare la frammentazione che è tipica della società lombarda, che non è solo una frammentazione industriale, ma anche una frammentazione sociale. E quindi questa è la sfida che ha questa città, che è stata una città di coesione per moltissimo tempo. Questa era una società che aveva grandi tradizioni di coesione e che oggi ha un po', l'ha detto anche il Cardinale Scola, ha perso un po' il senso della coesione, nel senso della visione comune, anche etica, dei propri valori, delle proprie determinazioni. Io però ho sottolineato un dato incredibile, che in 10 anni il numero di volontari è raddoppiato, 200.000 volontari, cose di questo. Quindi questo è un misto di pulsioni che ha bisogno però di trovare un alveo. Però le dice, tanti punti di forza messi assieme non fanno una grande forza se non c'è una visione, se ho ben capito, perché l'idea che, essendoci tanti elementi di forza nel mondo dei servizi, delle infrastrutture, anche della cultura, tutto questo possa bastare senza sostanzialmente che venga messo però a fattor comune, questa idea sta vacillando. No, credo che questa sia insufficiente. Io devo dire che trovo nel contesto europeo in cui mi muovo spesso, anche nel campo dell'innovazione, io vedo il ruolo dominante che svolge o di grande pressione che svolge Barcellona, per esempio, e vedo una presenza insufficiente rispetto alle sue caratteristiche di una città che ha molte più potenzialità come Milano. Quindi il fatto di avere, si parla di fare sistema, per me vuol dire avere una visione. Il fatto di avere una visione aiuta moltissimo a partecipare nei nodi dove oggi si gioca il gioco della grande innovazione europea. Ecco, noi siamo insufficienti perché non abbiamo massa critica sufficiente. La massa critica conta, la massa critica si fa con una visione. Adesso le informazioni sul traffico e poi la parte che riguarda invece la politica industriale di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms, la parte di Focus Economia su Facebook. Sto guardando la borsa, chiuso sui massimi, oggi una seduta veramente schizofrenica tra Russia da una parte, Europa dall'altra. Più 3,30% Milano, più 2,20% Parigi, più 2,50% Francoforte. Ci vorrebbe uno psicanalista più che un analista. Traffico. Ultimo tema, la politica industriale, e non quella di carattere regionale ma di carattere nazionale. La vicenda più recente, quella che riguarda il mondo dell'acciaio italiano, è ancora tutto aperto, il dossier Ilva, ma si è riaperto in qualche modo anche per i dubbi del governo, mentre si è chiuso positivamente il dossier Piombino, ex Lucchini, e soprattutto a ST Terni, dove a nostro avviso anche la mediazione del governo è servita a far tornare sui suoi passi ThyssenKrupp. Abbiamo chiesto quindi a Gianfelice Rocca se la politica industriale, non intesa come una nuova IRI nel paese di cui non si sente nessun bisogno, ma la capacità di mediare, di indirizzare, di avere visione, valga anche a livello nazionale. Diciamo che l'Italia ha sicuramente tanti punti di forza, perché noi parliamo di Lombardia, ma vedendo i dati più recenti di quello che sta succedendo in Emilia, in Veneto, ma anche il recupero che sta avendo il Piemonte, la questione settentrionale fatta di tante problematiche del genere, io vedo che c'è una tendenza a distendersi, diciamo, del gioco da questo punto di vista. Quindi certamente l'Italia è molto duale, quindi noi stiamo vivendo, però solo intorno a Milano, 60 km, c'è il 25% della produzione industriale, il 25%, quindi se vola questa componente abbiamo già un 25% che dà un contributo al paese di estrema importanza. Quindi io credo che certamente il sogno di tutti noi è che la politica, che oggi deve risolvere un problema di riforme, che è quello che io chiamo condizioni abilitanti, deve farlo sì o sì in tempi brevissimi, perché altrimenti non vedremo calare nella vita quotidiana delle imprese, dei cittadini, delle vere soluzioni. Vedremo parole ma non vedremo fatti. Ecco, questo è il grande momento. Però dopo parte una visione collettiva dove, secondo me, sono le grandi piattaforme di innovazione che creano convergenza. Quando parliamo di visione vuol dire mettere risorse nei punti giusti, non tante, l'Europa ne mette molto, ma vuol dire partecipare a questo gioco in maniera collettiva per poter vincere. Ecco, io credo che noi abbiamo molte possibilità e molte potenzialità. è l'intelligenza di sistema che occorre fare per mettere e collocare le risorse nei punti giusti per creare coesione dal punto di vista dei sistemi di innovazione. Noi, secondo me, abbiamo chance di giocare questo, e questo è il secondo passo anche di quello che è questo governo. Questo governo in questo momento non può che essere concentrato nei fattori abilitanti, quindi far troppe cose contemporaneamente è già un rischio. Già abbiamo un'agenda molto importante, dobbiamo dimostrare che questa agenda la portiamo a casa e che la vediamo nella vita quotidiana, e poi andiamo verso i settori differenzianti in cui le imprese stanno facendo la loro parte. Oh, nel frattempo è uscito anche il piano delle poste, dovremmo avere ospite Francesco Caio domani, se non ricordo male. Il numero uno delle poste italiane, 3 miliardi di investimenti in 5 anni, l'obiettivo 30 miliardi di fatturato nel 2020, nessun licenziamento, solo uscite agevolate. Nel nuovo piano sono previste 8.000 assunzioni, il 50% saranno giovani, giovani laureati e nuove professionalità. Tra l'altro il gruppo ha chiuso l'anno scorso con 1,5 miliardi di utili quasi, e dovrebbe, ricorderete che il Tesoro vorrebbe quotare le poste italiane, circa il 40% della società. Faccio notare che l'anno scorso il comparto assicurativo ha raggiunto il più alto fatturato di sempre, una raccolta ha superato i 13 miliardi. Bene anche la parte bancaria delle poste, 6 milioni di conti correnti postali, 6,5 milioni di carte postavant. E appunto quest'anno si va verso i 30 miliardi di euro di fatturato. E ritorno alla redditività, all'Italia, le poste sono, dopo gli Emirati Arabi di Abu Dhabi, il secondo azionista, hanno il 19,5% di Alitalia, anche perché il gruppo Poste Italiane possiede la compagnia Mistral Air, che fa servizi soprattutto di cargo per le lettere, ma anche di passeggeri, a 10.000 voli l'anno. E, dicevo, su Alitalia Caio ha detto che è un'opportunità, Post 2020 è un'azienda più semplice che fa tre mestieri, la logistica, la posta e le carte di pagamento, e l'Italia, il piano dell'Italia è funzionale ai nostri servizi. Andiamo alla borsa, iniziamo quindi la lunga pagina sulle borse europee, ma soprattutto sulla Russia. Come sempre Radio Colli Sole 24 Ore è deputato a fare il commento di borsa, e oggi sarà un commento, dicevo, più da psicoanalista che da analista. Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. No, perché dico psicoanalista? Perché allora, mentre Mosca precipitava del 20%, l'Europa era positiva. Poi Mosca si è leggermente ripresa, ma mi sembra che la chiusura sia ancora pesantissima, meno 13 l'ultimo dato che ho visto. L'Europa festeggia, più 2,20 Parigi, più 2,5 Francoforte, più 2,40 Londra, più 3,30% Milano. Prego. Sì, allora appunto, la borsa oggi ha avuto veramente quelle sedute che si chiamano da otto volante, ha avuto una mattina caratterizzata dalla volatilità, si continuava a passare dal segno più al segno meno, in qualche modo anche in maniera ingiustificata, cioè a ogni notizia che usciva, che poteva essere l'indice PMI piuttosto che lo ZEV tedesco sulla fiducia in Germania, comunque schizzava o in positivo o in negativo a seconda della reazione al dato. Poi a un certo punto, nonostante una volta che si erano in qualche modo fissati tutti i dati macro, la Russia comunque con l'indice, quello, perché la borsa di Mosca ha due indici, uno è quello in dollari e uno è in rubli, quello in rubli ha perso fino all'8% e poi invece la seduta comunque l'ha terminata in positivo di oltre l'1%, sì. È rimasto in negativo solamente l'indice in dollari, che ha perso circa il 12% alla fine delle contrattazioni, soprattutto appesantito dai titoli della principale banca russa, che hanno perso oltre il 12%. Quindi questa situazione, una volta che si è in qualche modo cristallizzata, ha visto emergere in Europa invece gli acquisti, quindi in qualche modo come se si fossero resettate tutte le situazioni macro, alla fine sono emersi gli acquisti, insomma, probabilmente dettati forse più da una voglia di recuperare e da risistemare i portafogli anche in vista della chiusura dell'anno, visto che tutta una serie di titoli erano comunque stati molto penalizzati nelle ultime sedute. In più c'è stato anche nel corso della seduta un lieve recupero del petrolio, che adesso è in positivo, anche se poi il positivo è passato veramente quando la borsa di Milano stava quasi per chiudere. Comunque questo recupero del petrolio ha fatto in parte recuperare soprattutto a Milano quasi tutti i titoli del comparto energetico. energetico. Sì, oddio, io resto convinto che oggi ci voglia più Sigmund Freud che Warren Buffett per spiegare la borsa, nel senso che ho capito la cristallizzazione del crollo russo, cioè si è cristallizzata una situazione di crisi pesantissima in Russia. E detto ciò, tu ricordavi la voglia di tornare a comprare, faccio notare che proprio ieri eravamo partiti con l'inizio settimana con la voglia di vendere perché si avvicinava Natale, insomma... non hanno le idee chiarissime gli operatori, mettiamola così, anche perché oggi crescono titoli che ieri erano stati molto penalizzati, penso alla Popolare Emilia Romagna più 6,60, altre banche, Intesa San Paolo più 4,5, Mediobanca più 4,30, Pop Milano più 3,90, Monte dei Paschi più 3,80%. Invece ci sono notizie su altri titoli, Finmeccanica più 5,91%, ne parliamo dopo il GR24, 349 238 6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:08, ritorno a Focus Economia, scusate, con voi Sebastiano Barisoni. Allora, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa, fermo restando che con una battuta abbiamo detto oggi ci vorrebbe più Freud che Warren Buffett, perché non si capisce perché alcuni titoli ieri pesantemente in calo oggi si siano ripresi, penso soprattutto ai bancari. Con Flavia Carletti stavamo cercando di capire quale senso avessero altri movimenti. Su Finmeccanica più 5,91%, in realtà è arrivata poi la notizia di un interessamento della cinese In Sigma per Ansaldo Breda. Già su alcune voci si era mosso il titolo oggi, Flavia. Sì, esattamente, perché questa mattina al Sole 24 Ore aveva riportato che secondo quanto ha preso, nei prossimi giorni, probabilmente già giovedì o venerdì, i vertici di Finmeccanica dovrebbero analizzare questa offerta che sarebbe arrivata da questa cordata cinese In Sigma Xingsu, che per il 100% di Ansaldo Breda e anche probabilmente per Ansaldo STS. Si parla di un'offerta superiore a 1,5 miliardi di euro e diciamo che oggi Moretti ha detto di non sapere se c'era l'offerta, poi invece è arrivata la conferma via comunicato, anche se molto stringato e non è stato specificato se l'offerta è vincolante o meno, però comunque lo stesso Moretti per esempio ha detto che comunque di escludere che Hitachi sia già fuori dalla gara. Hitachi è la giapponese che potrebbe contendere alla cordata cinese il settore trasporto di Finmeccanica, e quindi diciamo che fin dalle prime battute comunque il titolo è stato quello, uno di quelli sotto i riflettori per dei motivi in qualche modo oggettivi, al di là della schizofrenia della seduta. Sì, schizofrenia, cito un caso, Intesa San Paolo più 4,5% da un lato, dall'altro Unicredit più 2,13. Sono positive e siamo contenti, faccio notare che sono le banche più esposte sul mercato russo. Sì, esattamente, infatti erano i due titoli bancari che a un certo punto in totale controtendenza rispetto al settore italiano perdevano, arrivando fino a perdere circa il 3% nel corso delle contrattazioni, proprio perché facevano notare gli analisti, in particolare Unicredit è la banca italiana più esposta sul mercato russo. Unicredit ha proprio una sua filiale sul mercato russo, certo, che è la prima banca estera nel paese, la nona in graduatoria rispetto alle prime otto che sono tutte russe, e comunque secondo alcuni calcoli di analisti sull'utile pretasse di Unicredit di quest'anno, che è stimato in 4,5 miliardi di euro, 500 milioni potrebbero venire proprio dalla Russia, quindi un rallentamento dell'economia russa si calcola che possa pesare di più su Unicredit rispetto ad altre banche, e Intesa, anche se è meno esposta, comunque è la seconda banca italiana con una sua presenza nel paese, anche se non ha una filiale diretta. Quindi nel momento in cui c'era il più alto allarme sui mercati per la situazione economica di Mosca, erano due banche più vendute, anche perché per esempio hanno avuto anche scambi assolutamente elevati rispetto alla media del periodo. Poi nel finale, appunto, in questo movimento generale di tutte le borse europee che hanno recuperato terreno, sono state trascinate anche loro al rialzo, però appunto in maniera apparentemente ingiustificata rispetto a quelli che erano state l'andamento della seduta. Sì, su questo vale la pena ricordare che Unicredit è forse la banca italiana più internazionale in assoluto. La reazione, appunto, come tu raccontavi, è stata assolutamente schizofrenica, vale anche per altri titoli. Faccio notare che l'unico titolo che ha chiuso comunque in negativo è G-Tech, meno 0,41%, ma qui c'è l'ipotesi della tassa sui giochi. Sì, esattamente, il messaggio Ruggero riporta che il governo potrebbe introdurre una nuova tassa sui giochi, si parla di un 500 milioni di euro l'anno in carico di tutti i concessionari e questo secondo alcuni analisti che hanno iniziato ad esaminare la proposta ipotizzando una ripartizione pro quota a seconda delle quote di mercato potrebbe pesare sull'EBITDA di Gtech per 50 milioni di euro e quindi visto che la cifra citata dal quotidiano è superiore a quelle di cui si era parlato fino adesso da parte del governo che potrebbe essere inserita prima della fine dell'anno, in qualche modo ha pesato sul titolo ed è stato l'unico che in qualche modo è stato più coerente rispetto agli altri e alla fine ha chiuso la seduta in leggero calo dello 0,5%. Migliori e peggiori in assoluto, mi chiedete del lusso giustamente visto che l'impatto che ha il tema Russia sul lusso italiano, anche qui poco sensibile, Tod's più 2,11%, Moncler più 1,90%, Wall Duty Free più 1,40%. Campari più 1,36%, devo dire che anche su questo abbiamo visto movimenti molto molto, e Luxottica più 2%, molto scollegati da quello che stava capitando. L'euro è leggermente risalito a quota 1,2509, migliori e peggiori Key Group più 14%, AF più 7,5%, Mondadori più 7,40% e poi la Pop Emilia Romagna di cui abbiamo detto. Peggiori invece, dunque, Telefonica meno 5%, Caltagirone meno 4,5%, Ciccolella meno 4,20%, grazie a Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, ma noi continuiamo a occuparci di Russia. Allora, sì, mi fanno notare alcuni ascoltatori che poi venerdì ci sono le tre streghe, the three witches, la coincidenza di tutto un insieme di scadenze, però restiamo sulla Russia un secondo. Allora, per chi si fosse perso la giornata, precipita il rublo oggi, ha toccato quota 100 rubli per un euro e 80 rubli per un dollaro, quindi stiamo parlando di un rublo che da inizio anno ha perso più del 50% del suo valore, siamo arrivati secondo me al 60-65% del suo valore. Questo nonostante in mattinata la Banca Centrale Russa abbia annunciato e avesse annunciato di aver portato il costo del denaro, i tassi di interesse, dal già altissimo livello del 10,5% al 17%. Questo è il costo del denaro, il tasso di interesse praticato adesso dalla Banca Centrale Russa. L'iniziativa è servita solo per due ore a bloccare il crollo del rublo, poi il rublo ha ripreso a precipitare. La borsa di Mosca è arrivata a perdere il 20%, quella denominata in dollari soprattutto, e ha chiuso con un meno 12%, la peggior flessione dal 1995. I credit default swaps, e quindi i premi che si pagano per assicurarsi contro il default di Mosca, sono ormai vicini a quota 600 punti, vicini a quelli di Cipro, il doppio di quelli egiziani. E poi la schermaglia politica con il primo ministro Medvedev, che è anzi il ministro degli esteri Lavrov, che dice che sono le sanzioni americane, il fatto che l'Europa si sia accodata a creare questa situazione, puntano a un cambiamento del governo russo. Risponde invece il ministro degli esteri americano John Kerry: il calo del rublo non è causato solo dalle nostre sanzioni, ma anche dal calo del prezzo del petrolio. Allora, andiamo con ordine. Antonella Scott, che è la firma del Sole 24 Ore per tutti i temi legati alla Russia, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Allora, Antonella, come mai, la domanda può sembrare strana ma non è, ma spero che non lo sia, come mai tutto sta precipitando negli ultimi giorni? Nel senso che le sanzioni ci sono da qualche mese, abbiamo visto il rublo perdere il 20% negli ultimi due mesi, ma è innegabile che l'accelerazione sul rublo e quindi anche sulla borsa moscovita stia avvenendo nelle ultime settimane. Ora, a noi forse è sfuggito qualcosa, ma non abbiamo visto, è vero che il congresso americano ha dato via libera per le nuove sanzioni, adesso tocca ad Obama, ma c'è qualcosa che sfugge o semplicemente è un effetto valanga? Beh, dunque, in questi giorni la ragione più immediata era il calo dei prezzi del petrolio, dal momento che l'economia certo. russa vive del della vendita di energia, di gas e di petrolio. Pensiamo che la metà delle entrate fiscali del budget russo viene da questo settore, quindi è immediato il legame tra calo del petrolio e il destino dell'economia russa, che come molti la chiamano questa la tempesta perfetta, cioè il fatto che questa situazione si sia unita alla crisi ucraina, quindi alle sanzioni, che soprattutto l'impatto più grosso mettono le banche, le imprese russe nell'impossibilità di andare a raccogliere capitali all'estero, quindi far fronte ai propri debiti. Però questo è un problema che verrà spalmato nel prossimo anno, perché le scadenze di quest'anno, di fine anno, c'è liquidità sufficiente per onorarle. Il vero problema, se la situazione si dovesse protrarre anche l'anno prossimo, verrà poi tra un anno. Probabilmente la ragione che appunto si è unita al calo del petrolio è che improvvisamente tutti gli sforzi della banca centrale, che come dicevi oggi ha portato i tassi di interesse al 17%, ma questo è il sesto rialzo da marzo, quando i tassi erano al 5,5%. Il fatto che ormai improvvisamente oggi deve essere crollata la fiducia che la banca centrale sia in grado di fare qualcosa e che quindi l'economia possa trovare una via d'uscita. Non sono tassi che un'economia in difficoltà può sostenere a lungo. Allora, tu hai fatto bene a ricordare che, lo spiego anch'io, quando parliamo di prezzo del petrolio, il prezzo che vediamo è quello attuale, $54 al barile, però i contratti si fanno per tempo, non è che uno compri il petrolio tutti i giorni, quindi probabilmente sicuramente i contratti che ha in mano la Russia sono contratti con un prezzo del petrolio più alto. Il problema è l'incasso che tu farai nei prossimi mesi. Faccio notare, alcuni mi scrivono, che l'Italia ha un interscambio commerciale con la Russia importantissimo. È ovvio che noi importiamo soprattutto gas e petrolio, ma esportiamo per quasi per oltre 10 miliardi di dollari di euro, scusatemi. Il problema è che già quest'anno, il dato ultimo che abbiamo a disposizione fino ad agosto, nei primi 8 mesi dell'anno noi abbiamo esportato per 6 miliardi e 450 milioni da gennaio a agosto, con un calo di quasi il 10%, come già effetto delle sanzioni e del rallentamento dell'attività economica a Mosca. Ora voi capite che se anche venisse confermato, temo che sarà peggiore il dato, vista l'accelerazione degli ultimi 2 mesi, un 10% in meno in un anno di esportazioni verso la Russia significa paro un miliardo, almeno un miliardo in meno di esportazioni italiane. Noi esportiamo macchinari, apparecchiature, oltre che abbigliamento e pelletteria. Resta con noi Antonella, perché ho il traffico, e poi ci ha raggiunto anche Mario Platero in collegamento da New York. Allora, Antonella Scott, poi c'è il fronte che sta diventando sempre più diplomatico e quindi politico, perché c'è stato un vertice tra il premier russo Medvedev e tutti i responsabili dell'economia. Abbiamo visto un'agenzia uscire poco fa, ha detto abbiamo preso misure per stabilizzare stabilizzare l'economia, le azioni della banca centrale saranno dirette ad aumentare la concessione della liquidità valutaria. A un certo momento hanno anche sospeso gli scambi tra rublo e dollaro, però poi il ministro degli esteri ha accusato direttamente l'America, ha detto le sanzioni americane puntano a un cambiamento del governo, ma in realtà non è che Putin e Medvedev abbiano sottovalutato l'impatto delle sanzioni prima americane e poi europee, cioè che questo sostegno all'Ucraina gli stia costando veramente troppo? Sì, perché più che le sanzioni vere e proprie, quello che si sta pagando è il clima, che ormai la tensione, il gelo che che blocca i rapporti normali tra Occidente, Stati Uniti, Europa e Russia. Gli scambi che certo, come dicevi tu, l'esportazione, adesso noi da agosto in poi dobbiamo anche considerare che in agosto sono entrate in vigore, è entrato in vigore l'embargo sui generi alimentari che colpisce l'export europeo, in particolare italiano anche, e questi sono dati che ancora non possiamo sapere quanto peso avranno. Non è però tanto, al di là di dei dati specifici, è anche il fatto che psicologicamente, pensiamo a tutti i progetti, gli accordi che non vengono stretti, anche se magari non sono coinvolti direttamente nelle sanzioni. E di questo è difficile vedere una soluzione nel lungo termine, finché resta questa crisi geopolitica. Fermo restando che, come tu ricordavi, pesa più il prezzo del petrolio in questo momento, il calo pesante del prezzo del petrolio che le sanzioni, il Congresso americano ha adottato definitivamente la legge che autorizza le nuove sanzioni contro Mosca e l'aumento degli aiuti militari a Kiev, quindi l'Ucraina. Adesso il Presidente Obama può promulgare questo intervento, porre il veto. Non ha ancora reso note le sue intenzioni. Ricordo, insomma, tantissime le società e i giganti del petrolio, Rosneft, Gazpromnet, Transnet, sanzionate. Mario Platero, le intenzioni della Casa Bianca, e ha risposto Kerry comunque a Lavrov oggi? Sì, infatti, dunque, le intenzioni della Casa Bianca, attenzione, perché il Congresso vuole muoversi, come dire, in modo più aggressivo, ma Barack Obama è vincolato in qualche modo dalla necessità di coordinare queste azioni soprattutto con gli alleati europei, soprattutto con la Germania. Dunque staremo a vedere come si posizionerà la Casa Bianca. Certo, la possibilità di inviare forniture militari all'Ucraina era già presente in qualche modo. A questo punto Barack Obama deve capire fino a che punto può tirare la corda. Devo dire che in questa situazione, ne parlavate prima, sentivo la tua chiacchierata con Antonella, e la Russia, diciamo, è già in tali difficoltà che forse sarebbe il caso da parte degli Stati Uniti di fare un passo indietro. Perché? Ma perché, vedi, quello che dicevate voi, quello che diceva anche Antonella, più che la sanzione, possiamo dire, colpisce il petrolio, perché il problema russo è che non è mai riuscito, come paese, la Russia, non è mai riuscita a tradurre, come per esempio ha fatto la Cina con grande lavoro, le possibilità, le necessità di una crescita, e quindi a tradurre l'income petrolifero, il reddito petrolifero, in una crescita economica diffusa. E diversificata. Diversificata, a creare occupazione, a creare una classe media che funziona. Resta un paese vecchio, con delle strutture industriali vecchie. Il reddito del petrolio ha arricchito il paese, ha arricchito gli oligarchi, ha creato un'economia non a due ma a 10 velocità, una che viaggia a 1, una che viaggia a 10, e quindi nel momento in cui il prezzo del greggio, il prezzo del petrolio, che è l'unica fonte di income vera per la Russia, cade del 40% in pochi mesi, è fortissima. Per concludere, visto che qua ci stiamo spostando più che sulla politica economica, sulla realpolitik di politica estera, conviene all'America in questo momento e a un Barack Obama, che ha una politica estera quantomeno, diciamo, discutibile, e lì mi riferisco più al Medio Oriente, come risultati, conviene avere una Russia eccessivamente debole? Perché, insomma, lo scontro è lo scontro sull'Ucraina, va bene, ma qui c'è un paese che, non dico che sia un passo, ma sta pericolosamente andando vicino a un rischio bancarotta, con i tassi al 17% e il CDS a 600 punti. Hai ragione, c'è un doppio rischio qua per l'America, e cioè un rischio bancarotta. Russia chiaramente non aiuta, creerebbe immediatamente delle ripercussioni sul mercato. Ti interrompo un secondo, Mario, perché le agenzie hanno appena battuto la notizia che Obama firmerà le nuove sanzioni, quindi ecco, si allinea, si allinea sull'idea del Congresso. Prego, ti ho interrotto, scusami. Sì. Ecco, e quindi dicevo, la questione riguarda, dal punto di vista americano, la stabilità di un certo mercato, quello finanziario, quello energetico, quello delle materie prime. Non aiuta mai nessuno una instabilità, una volatilità del 40%. So che ci sono state varie illazioni di vario genere: dietro la caduta del prezzo del petrolio c'è l'America, dietro la caduta del petrolio c'è l'Arabia Saudita che vuole mettere in difficoltà la situazione. Si dice di tutto, la verità è che non conviene a nessuno. Ieri c'è stato un interessante andamento dei titoli finanziari che hanno sofferto molto di più di quelli energetici, perché tutte le compagnie impegnate nello shale gas e nello shale oil hanno dei costi di produzione che sono ormai superiori a quelli del prezzo del greggio a cui possono vendere, e molte di queste aziende sono impegnate con le banche, e le banche americane stesse rischiano di trovarsi esposte. Quindi questa caduta del prezzo del greggio sta provocando delle reazioni a catena, dove ognuno, la Russia da una parte ma anche l'America dall'altra, rischia di soffrirne le conseguenze. E poi nel nostro piccolo, anche noi, ricordo, il settore del lusso, il settore del turismo, e poi i russi spesso vengono un po' stereotipati, ma non ci sono solo i miliardari che vengono a comprare casa o usano i grandi alberghi, le grandi griffe italiane, c'è tutta la meccanica industriale di questo paese che l'anno scorso, 2013, è riuscita a esportare in Russia macchinari e apparecchiature per quasi 2 miliardi di euro. Tra l'altro quest'anno puntava a fare 2 miliardi, l'abbigliamento l'anno scorso è riuscito a esportare per quasi 1 miliardo di euro, attenzione a non semplificare i concetti. Grazie comunque a Antonella Scott e a Mario Platero, da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, intanto l'augurio di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.